voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. First of all, thank you for giving me the opportunity to come talk to you on Career Day. Now, I am not Mr. Carl Peterson, and I don't have a career per se. I guess you could say my career is living and loving, and I do that to the utmost. Vi ricordate di Go to Hell, Miss Riddell o di Riverbank? Sto parlando ai vecchi ascoltatori di Eclettica, quelli che l'ascoltano da parecchio tempo, quando ancora non era nel suo attuale orario 19:20 tutti i giorni della settimana su Rock FM. L'album in questione era Everything Now dell'artista svedese Perle Carlberg, che qualche tempo fa, 2 anni se non ricordo male, ci ascoltavamo spesso da queste parti. Ecco, ora Perle Carlberg è uscito con una nuova prova dal titolo In a Nutshell, dal quale ci stiamo per ascoltare, dopo aver sentito di Electric Soft Parade in apertura di questa seconda parte di Eclettica, ci stiamo per ascoltare un brano dal titolo direi sufficientemente lungo: Clever Girls Like Clever Boys, Much More Than Clever Boys Like Clever Girls. Someone more like Fred. looks for a clever boy to another extent than a clever boy will ever look for a mate who goes to road to the base and runs a little bit late when she just works for the state. You see, the clever girls look for the clever boys, and then the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. So when the laughs are all good, run and things say. Trouble to admit it. He wants a woman with ambitions that go as far as racing kids. You see, the clever girl looks for a clever boy to another extent than the clever boy will ever look for a mate who goes to road on the bait. So it's a little bit. She just worked for the state. You see, the clever girls look for the clever boys, and the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. So when the laughs are over, funny little things say. And the clever boy will ever look for a mate who goes to road till debates and runs a little bit late, and she just won't for the state. You see, the clever girls look for the clever boys, and then the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. Someone to laugh, said all the funny little things. And then the clever girls look for a clever boy, so then the clever boy looks like a clever boy. They'll ever look for a mate who goes to road till debates and runs a little bit late. Duck e Sally sono in casa, stanno cucinando per tutti e cinque. Chi sta guardando Miss Rayon, chi si occupa di leccare a nuovo il suo porcile. Io sto cercando la vena giusta. Ho detto che non riuscivo a trovarla di lato. Ah, proprio come diceva sorella Ray, sparatela. Rosie e Miss Rayon sono tutte indaffarate ad aspettare chi le buca, che è appena tornata dalla Carolina. Ha detto che non le piaceva il tempo. Sono tutte indaffarate ad aspettare il proprio marinaio, che se ne sta a bere vestito di rose e di cuoio. È appena arrivato dall'Alabama. Vuole trovare un modo per guadagnarsi degli spiccioli. Sto cercando la vena giusta. Ho detto che non riuscivo a trovarla di lato. Ah, è proprio come diceva sorella Ray. Continua così. Cecil ha in mano la sua nuova pistola. Scioglie la roba e se la spara tra le 3 e le 4. La punta contro il marinaio, gli spara e lo uccide, morto per terra. Non avresti dovuto farlo, non sai che sporchi la moquette. Non lo sai che sporchi la moquette. E a proposito, non hai per caso un dollaro? Ah no, amico, non ho il tempo. Troppo occupata a succhiarmi il gingillo. Ah, le fai proprio come dice sorella Ray. Sto cercando la vena giusta. Ho detto che non riuscivo a trovarla di lato. Fallo. Ah, proprio come diceva sorella Ray. Ora chi è che bussa? Chi bussa alla porta della mia camera? Potrebbe essere la polizia. È arrivata per darmi un passaggio. Ah, ma non ho tempo. Ehi, lei è troppo occupata. A succhiarmi il coso. È troppo occupata a succhiarmi il gingillo. Ah, Fallo proprio come dice sorella Ray. Sto cercando la vena. Non riesco a trovarla di lato. Ora, proprio come... Questa era Sister Ray di Lou Reed. Untouchable. fresh-faced kidlets sitting there in your neat little rows, and you're all just pods, pods waiting for your instructions. Now, some of you are going to get zapped right away and be 15-year-old prodigies, little midget Olympic gymnasts with their pictures on cereal boxes. Some of you will go on to college and you'll find your rhythm there and then go chase down the titans of industry or maybe straighten out our problems at the UN. But some of you, and this is the group that no one ever comes into Career Day and addresses, and it's criminal. Some of you are just gonna float along, eating spicy foods, humming black people's music into your 30s, well into your 30s, languishing. This group of pods is gonna do a lot of languishing, and you're gonna take some heat for it. Sadly, you will. Europe's a little easier. They seem to understand a little better. So South America. I went to Argentina one time and everyone just seemed to be sitting around. It was beautiful. But that's okay. You stay loose, stay liquid, you laugh a lot, but be ready. That's what Dupree's doing with his life's little pod, staying nimble until I get the call from the mothership. My raison d'etat. Then I fight. Then you'll see Dupree coming in here throwing seven different kinds of smoke. Ad essere onesti, non saprei che cosa. L'aspetto non può mentire. Forse hai perso la testa, ma se hai perso la testa, non hai perso niente. Può bastare un giorno in vacanza per sentirsi di thank you. Questa è la musica di Eclettica, come quella che vi siete appena ascoltati, Carpaccio, e ancora prima Occasion Dance Party, o quella che vi state per ascoltare come Adelita da parte degli Oh Death. Questa è Eclettica con i suoi sprazzi cinematografici, quelli di un film recentissimo, uscito da poco nelle sale italiane. E questa è Eclettica con le sue letture, tipicamente di libri, ma questa settimana sono i testi dei Velvet Underground. Il tutto potete ottenerlo in dettaglio all'interno delle playlist di Eclettica, ricevute direttamente nella vostra casella di posta se vi iscrivete alla lista nera scrivendo a giulio@radiorockfm.com, oppure sopra myspace.com/eclettica, lì sopra trovate tutto il dettaglio, come anche quello che vi permette di recuperare il podcasting. Candy dice che sono arrivata a odiare il mio corpo e tutto ciò di cui ha bisogno in questo mondo. Candy dice che vorrei capire con precisione quello di cui altri discutono con tanta discrezione. Guarderò gli uccellini che volano sopra le mie spalle. Voglio guardarli mentre mi passano sopra, forse quando sarò più vecchia. Cosa credi che vedrei se potessi allontanarmi da me? Candy dice che odio i posti tranquilli, che richiamano impercettibilmente il gusto di ciò che sarà. Candy dice che odio le grandi decisioni che provocano ripensamenti infiniti nella mia mente. Guarderò gli uccellini che volano sopra le mie spalle. Voglio guardarli mentre mi passano sopra, forse quando sarò più vecchia. Cosa credi che vedrei se potessi allontanarmi da me? Questa era Candy Says di Lou Reed.